divisi da coppie di coinquilini molto particolari perché appartenenti a generazioni diverse, un anziano e uno studente. Solo a Milano, vi do qualche altra cifra, 40.000 studenti fra fuori sede e pendolari, 280.000 persone anziane che vivono in molti casi da sole. Ed è partito da tutte queste constatazioni il progetto dell'associazione Meglio Milano, il cui nome spiega già molte cose. Prendi in casa uno studente, questa mattina con noi al telefono è Lida Massone, segretaria regionale dell'associazione Meglio Milano e responsabile del progetto. Buongiorno, benvenuta a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Allora, il progetto Prendi in casa uno studente va avanti ormai da 6 anni a Milano. Vorrei spiegare subito ai nostri ascoltatori in cosa consiste, perché magari c'è già qualche famiglia che, oltre a cercare di capire come orientare al meglio il futuro universitario dei propri figli, cerca anche di capire poi, come dire, praticamente come poterlo sistemare qualora si scegliesse una città fuori sede. Se uno studente volesse arrivare a Milano e magari vorrebbe proprio una, come dire, sistemazione come quelle che organizzate voi, dottoressa Massone, cosa può fare? Contattarci, noi abbiamo un sito internet che è www.meglio.milano.it o il numero di telefono 02 76 020 589 e contattandoci fissiamo un appuntamento per incontrarlo e per capire se è, diciamo, abbinabile a una delle offerte di alloggio esistenti. Ecco, ovviamente. Ma spieghiamo che non sono offerte di alloggio intese proprio nel senso tradizionale del termine. No, ecco. Assolutamente, sono delle vere e proprie convivenze con delle persone milanesi che hanno superato i 55-60 anni, sono in pensione e hanno piacere di avere una presenza in casa, una compagnia, oltre che ovviamente arrotondare un minimo la pensione con la cifra che lo studente mensilmente versa. Sono prevalentemente donne e diciamo che hanno una casa ancora grande e quindi hanno una camera singola da poter offrire allo studente. E la cifra che viene loro richiesta è più o meno di 250 euro al mese, che include tutti i costi della convivenza. Questa è una cifra, per chi più o meno conosce Milano, il mercato degli affitti, si rende conto che è una veramente cifra molto bassa. Non dico un regalo perché non vorrei esagerare nessun però voglio dire, mediamente si va per una camera singola dai 400-500 euro in media in una zona semicentrale, per cui effettivamente questa cifra è estremamente contenuta. E però, insomma, dietro al pagamento di questo, che non è un vero e proprio affitto, no, ma infatti, un rimborso spese. È un rimborso spese perché il ragazzo e la ragazza hanno diritto a titolo gratuito alla camera singola. La cifra che versano è un rimborso sulle spese vive, la tassa sui rifiuti, spese condominiali e quant'altro. E noi chiediamo però che a fronte di questo, diciamo, tra virgolette risparmio, il ragazzo e la ragazza si rendano disponibile a essere presenti nella vita della persona che li ospita. E infatti, quindi, voi mettete in contatto, insomma, le persone interessate a questo progetto, c'è una selezione, uno screening molto accurato. Abbastanza. E non tutte le persone vanno bene per un impegno di questo genere. Per esempio, cominciando dalle persone anziane che sono interessate a prendere in casa uno studente, come fa a prendere contatti con voi e poi come fate a scegliere se vanno bene o meno? Ricordiamo che qua non si tratta neanche di persone anziane che cercano una badante o un badante, lo spirito dell'iniziativa è molto diverso. Sì, infatti. Allora, noi gli anziani, è una brutta parola, preferiamo definirli ospitanti, perché anziano è una parola un po' che non rende l'idea appunto del potenziale di questa di queste persone. E li andiamo a incontrare in casa uno per uno e quindi facciamo una chiacchierata, oltre a farci conoscere, perché normalmente le persone sono ovviamente così un po' diffidenti sul dire devo aprire le porte di casa a qualcuno, certo, eccetera. Sono un po' combattute, ecco, rispetto alla voglia di compagnia e la paura, un po' il timore. E quindi diamo tutte le informazioni utili, ci presentiamo, eccetera. Cerchiamo di capire anche quelle che sono le aspettative di questa persona. Ognuno ha un'aspettativa diversa. Diciamo che appunto il denominatore comune è un po' la solitudine e la voglia di avere qualcuno in casa, ma anche così di partecipare nuovamente un po' alla vita, all'università, un po' di chiacchiere. Anche una sorta di adozione quasi di un nipote qualche volta, perché a volte anche in termini affettivi il rapporto si sviluppa anche in questa direzione. Allora, se loro funziona, si chiamano molto amici, amici, perché poi non ci sono connotazioni parentali, ma si acquista una confidenza che forse con un familiare non si ha. E quindi dicevo, ormai al sesto anno di attività abbiamo ben chiaro appunto la differenza tra chi ha voglia di questa compagnia, di questa partecipazione, e chi invece sta cercando una badante a costo basso, e anche perché appunto ricordiamo le persone che offrono alloggio devono essere autosufficienti, e anche perché un ragazzo di 18-20 anni non può essere caricato di un peso psicologico di questo tipo. Quindi una volta fatte tutte queste verifiche, poi ci mettiamo alla ricerca del profilo del ragazzo o della ragazza. Ricordo che non è una selezione, perché poi quando vediamo i ragazzi sono sempre nervosissimi, pensano sì, come se fossero ad un esame o un colloquio di lavoro, ecco. Infatti a me spiace, non è mai una selezione, anche spesso noi lo raccontiamo, guarda che un piccolo difetto, una piccola mancanza è quello che proprio ci può aiutare ad abbinarti con la persona con la quale puoi andare d'accordo, quindi non c'è giudizio in questo. Non bisogna presentarsi da voi in sostanza con l'ansia di prestazione. So che le richieste che vi arrivano, dottoressa Massone, sono anche non solo da studenti ma anche da lavoratori. Sì, ne abbiamo tantissimi, sì, anche se il progetto è nato proprio per studenti universitari, da sempre abbiamo avuto numerose richieste da parte di lavoratori a tutto raggio, quindi neolaureati in fase di stage non retribuito o anche praticanti. Comunque mediamente sono persone laureate, abbastanza giovani, che stanno cercando un alloggio a Milano o perché hanno uno stipendio, se ce l'hanno, basso, o perché non possono permettersi di rimanere a Milano vincolandosi a dei contratti troppo lunghi. Certo. Ecco. E quindi sono, come dire, sistemazioni a tempo che a volte possono andare a tempo. Poi tra l'altro anche lì non è neanche detto che la persona magari che vi cerca in qualità di ospitante voglia proprio un giro continuo all'interno della propria abitazione, quindi da questo anche il continuo contatto che l'associazione ha con le persone interessate al progetto. Le volevo chiedere, dottoressa Massone, è comunque interessante tutto questo per chi ci ascolta, perché a Milano arrivano studenti davvero da tutta Italia. Sì. In ogni caso risulta che esperienze simili, magari per dare qualche indicazione pratica, siano diffuse anche in altre regioni. So che c'era qualcosa del genere anche a Roma. Sì. Noi abbiamo seguito in questi anni una rete di città che si è sviluppata e cresciuta proprio condividendo le modalità di questa forma di accoglienza. E a Roma in particolar modo c'è la Fondazione Moderni che segue l'accoglienza agli studenti, è una fondazione che lavora proprio per gli studenti universitari, e è nato il progetto credo 4-5 anni fa, ma non sono rari i casi di diciamo gemellaggi di questo tipo. Le città sono molte, da Padova, Viterbo, Venezia, Torino lo fa da moltissimi anni. Ecco, un po' la criticità di questo progetto è riuscire a dare continuità al servizio, perché poi è un servizio, ma si creano anche dei legami affettivi con le persone che aderiscono. E poi insomma, se ci fosse anche un po' di supporto da parte del settore pubblico non sarebbe male. Io, dottoressa Massone, devo salutarla perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ricordo, il progetto si chiama Prendi in casa uno studente, per chi volesse cercarlo su internet il numero di telefono del servizio di Milano è 02 76 020 589. Grazie, buona giornata e soprattutto grazie, buon lavoro per il prossimo anno universitario. Alessandro, eccoci allora. Allora, oggi a Salvadanaio mi occupo della guida risparmio energetico tra le mura domestiche in collaborazione con il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata anche a te. Noi ci occupiamo in questa estate che arriva di tutti questi comuni dove ci sono delle ordinanze incredibili, divieti, per esempio in alcuni comuni, Sirolo, Ancona, dalle tue parti, di lasciare un asciugamano. Vietato occupare il posto lasciando un asciugamano. Effettivamente questo fa molto furbetti. Ma stai attenta anche a Eboli, dove è vietato baciarsi in auto. Non ho nessuna intenzione di andarci. A Bacoli è vietato bere con la cannuccia. Questa è fantastica. Sì. A Furore è vietato tenere nani da giardino. Dove sta Furore, peraltro? Non lo so. Ce lo diranno gli ascoltatori, i furorini o i furoresi. Io non lo so. Detto questo, ci sono delle ordinanze incredibili. Vietato bivaccare, vietato mangiare, vietato andare in giro in costume all'Erici, a torso nudo. All'Erici non si può. Allora, tutte queste ordinanze per la buona educazione, per il decoro, sono ordinanze che secondo voi servono oppure sono ordinanze sbagliate? Sono le 8:31 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, e nel nostro sondaggio di oggi vogliamo parlare di queste ordinanze, questi divieti sempre maggiori nei nostri comuni, soprattutto nell'estate. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? divieti e ordinanze contro la maleducazione, secondo voi servono? Intanto io voglio salutare Piero Stellino, buongiorno Stellino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora le voglio far sapere che ad Eraclea, se lei non lo sa, è vietato giocare a pallone, costruire castelli di sabbia e raccogliere conchiglie, mentre a Viareggio non si può andare in skateboard, ma neanche, senta un po' Stellino, appoggiare i piedi sulle panchine. Non so se lei... è uso appoggiare i piedi. Però c'è anche Maiori, vietato verniciare le imbarcazioni in riva al mare. A Sirolo è vietato occupare il posto lasciando un asciugamano. A Mintumo Latina è vietato usare i risciò a pedali nei weekend di luglio e nel mese di agosto. Poi si regga forte, perché a Sorrento è vietato agli artisti di strada sostare nello stesso posto per più di 5 minuti. Per cui ci sono questi artisti di strada che evidentemente gironzolano qua e là. A Bacoli, in provincia di Napoli, è vietato bere con la cannuccia. Ecco Stellino, questa, sulla cannuccia mi fermo, perché forse ce ne sono altre, ma questi già possono iniziare, possono bastare. Che dobbiamo dire? Lei che ne pensa? Ma penso che è un'ossessione regolamentatrice, cioè si vuole fare diventare la gente buona educata o angelica attraverso i regolamenti e i divieti. Cioè tutte queste cose che attengono alla buona educazione riguardano la famiglia, la scuola, la società, ma non devono riguardare la funzione pubblica. Se la funzione pubblica pretende di cambiare gli uomini e farli diventare angelici, siamo allo stato etico, cioè siamo allo stato che persegue il peccato invece che il reato. Peccare è una questione che riguarda i preti, i reati sono questioni che riguardano i magistrati e i tribunali. Tra l'altro, e quindi a questo punto non si capisce perché sia venuta questa ossessione regolamentatrice, o meno la si capisce grazie alla cultura, diciamola così, costruttivista, per non dire socialista, italiana, in base alla quale si vuole cambiare l'uomo, farlo diventare migliore attraverso le leggi, attraverso lo Stato. Beh, questo è una forma di totalitarismo, sia pure soft, ma insopportabile. Però qualcuno dice, Ostellino, siamo diventati talmente maleducati. Allora è vero, cioè non si può cambiare o imporre l'educazione, qualcosa che dovrebbero darci la famiglia, la scuola, la società, il contesto sociale nel quale viviamo, tramite un'ordinanza, non si può imporre. Però a volte si dice, gli italiani alcune cose le capiscono solo così, perché altrimenti, cioè se gli si va a toccare il portafogli poi. Beh, se pensiamo che noi siamo antropologicamente dei barbari, beh allora sì, trattiamoci pure da barbari, però io non credo che gli italiani siano peggiori di altri paesi. E poi ad esempio proibire di bere una bibita con la cannuccia è semplicemente cretino, cioè non si capisce bene che cosa facciano questi amministratori locali, persino lo Stato, persino il legislatore, che evidentemente non hanno altro da fare che pensare a chi beve la bibita con la cannuccia. Insomma, questo è un paese che ha bisogno di leggi vere, di riforme autentiche, che riguardino la società, che riguardino lo Stato, che riguardino l'eccesso di legislazione che c'è. Cioè, in altri termini, abbiamo bisogno di modernizzarci, e noi ci modernizziamo impedendo alla gente di bere la bibita con la cannuccia, ma insomma stiamo diventando ridicoli. C'è anche a furore, che abbiamo sulla costiera amalfitana, come tanti ci hanno scritto, il divieto di tenere nani da giardino, chissà, forse perché li rubano. Ma intanto, Ostellino, noi li abbiamo chiamato un po' di sindaci, che così le faranno sapere perché loro alcuni dei divieti li hanno messi. Per esempio, io voglio salutare il sindaco di Lerici, in provincia di La Spezia, un posto fantastico tra l'altro, Emanuele Fresco, sindaco, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, c'è anche il vice sindaco del comune di Vigevano, Andrea Ceffa, siamo in provincia di Pavia, vice sindaco. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, sindaco Fresco, partirei da lei, perché l'ordinanza che ho qua sotto gli occhi e che mi sono perso, eccola qua, il sindaco ordina, dopo fatte varie premesse, è vietato a Lerici il deposito di asciugamani, vestiario, borse ed altri effetti personali sulle aree pubbliche poste al di fuori degli arenili. Ma poi soprattutto la cosa interessante, al punto 2, è vietato percorrere le strade, le passeggiate il territorio comunale col solo costume a torso nudo. Perché non si può andare in giro a torso nudo a Lerici? Ma intanto direi, più che chiamarli divieti, le definirei regole, perché se questo paese non recupera il senso della comunità, secondo il mio punto di vista fa poca strada. Indubbio che bisogna guardare alla modernità, bisogna guardare alle riforme, guardare in senso ampio, però è altrettanto vero bisogna recuperare anche quel senso di responsabilità e di rispetto reciproche verso gli altri. Purtroppo in alcune situazioni questo non avviene, quindi al di là di quelle che sono le formule educative, che concordo che devono essere sempre di più la scuola, la famiglia, le regole, c'è anche l'istituzione locale che in qualche modo deve guardare i diritti, ma deve anche e soprattutto guardare i doveri. Quindi in alcuni casi è necessario intervenire, e quindi al di là del così esasperare il tema divieto, io lo ricondurrei alle regole. E perché una regola? Che è una regola, secondo il mio punto di vista, proprio nel rispetto reciproco, quello di mantenere anche dei comportamenti opportuni, soprattutto in una località come la nostra, che è una località turistica, balneare, che cerca di puntare molto sulla qualità del proprio prodotto. Ho capito, sindaco, ma qual è un comportamento? Ho ritenuto di dover procedere a questa ordinanza di utilizzare, di mantenere il costume nelle zone confacenti a questa cosa, perché non vedo perché si debba andare per la strada, stare nei bar in costume a torso nudo, o in mutandina, francamente. Cioè, a torso nudo lei non li vede la gente? A torso nudo la gente non può andare in giro a lei, ci le dà fastidio. A torso nudo io ritengo che si debba andare nelle spiagge, si debba andare in quelli che sono i luoghi in cui a torso nudo o in costume si possa essere o si possa stare. Quindi è anche un problema di rispetto nei confronti delle altre persone. Per quello non lo chiamerei divieto. No, ma una regola. Lei ha fatto questa ordinanza. Io voglio andare anche a Vigevano, Ostellino, senta anche a Vigevano, forse insomma è balzata agli onori, qualcuno dice i disonori della cronaca, qualche giorno fa quando due ragazzine si sono messe sulla piazza, qual è la piazza, vice sindaco? Ma la piazza Ducale. La piazza Ducale. Si sono sedute sotto un monumento, e chi è arrivato? È arrivato il comandante della polizia municipale, credo anche in borghese, è sceso e le ha multate. Perché? Perché non si può stare lì. Perché esiste un regolamento di polizia urbana che vieta, tra le altre cose, di sedersi sulla questa statua, che è la statua del San Giovannino, come si chiama amichevolmente a Vigevano, che è una statua storica, un monumento, e come è normale che non si possa sedere sui monumenti, è anche normale che non ci si possa sedere su quel monumento, anche se la vicenda non si è svolta esattamente come è stata raccontata, ma ad ogni modo... Cioè, perché cosa c'è? Il rischio del bivacco? Per dire. Cioè, il rischio concreto ed effettivo del bivacco, perché effettivamente così purtroppo spesso è, nel senso che ci si siede su questi scalini del monumento, spesso in più persone, e si mangia, si fuma, e quegli scalini diventano una zozzeria dopo pochissimo tempo, costano alla collettività dei costi di pulizia abbastanza alti, perché chiaramente bisogna usare poi delle macchine spazzolatrici particolari per rimuovere quello che è poi il risultato di tutto questo. Lo scalone, diciamo, che porta, per darle un'idea, al cortile del castello, che noi abbiamo una piazza la più bella d'Europa, un castello il più grande d'Europa, dunque sono spazi di una bellezza immensa. Siamo stati costretti a chiudere questo scalone con un cancello perché si sedevano sui gradini, scrivevano sul muro, rendevano quegli scalini di una sporcizia immane. E allora, come giustamente ha detto il sindaco di Lieri, ci si parla di regole. Qui in Italia c'è un'allergia generalizzata alle regole. Il nostro regolamento è il regolamento di buona educazione, non ci sarebbe bisogno di scriverlo se tutti conoscessero queste normali norme. Quindi quello che dice Ostellino, dice non si può imporre questo. Ha sentito Stellino? Cioè non parlano di divieti, ma di regole, tornare a rispettare le regole, che in Italia... Io ho sentito. Allora vi faccio un esempio. Sì. La Francia e la Germania sono governate da 9-10.000 leggi. Noi ne abbiamo quasi 150.000, e quindi questo sarebbe un paese con poche regole? Questo è un paese dove forse ce ne sono talmente tante che non ci si orienta nemmeno più, e una contraddice l'altra, e col risultato che la gente non sa mai quale sia la certezza del diritto. Ora io dico, la mia libertà deve finire dove incomincia la libertà degli altri. Quindi se io fumo in un ambiente chiuso e finisco col costringere quegli altri che stanno nello stesso ambiente a fumare il mio fumo passivo, Bene, io non devo fumare perché evidentemente violo la libertà degli altri di non fumare. Fin qui va bene. Fin qui va bene anche il fatto che non si sporchino i monumenti, non si buttino le cartacce per la strada. Ma nei paesi civili, e io credo che anche il nostro lo possa essere, se qualcuno butta una carta per terra o svuota il portacenere della propria automobile sul marciapiedi, interviene la gente che cammina per la strada e lo costringe a tirare sulla carta o lo accusa di sporcare la città. Cioè, da noi c'è un eccesso di regolamentazione dovuto al fatto che i pubblici amministratori sono convinti che i loro cittadini siano dei barbari e che quindi bisogna trattarli come tali. Ma non solo dei barbari, anche delle persone da spremere. Cioè, questo è il paese dove si taroccavano i semafori per portare via i soldi agli automobili. Ah, le dice che è anche un modo per fare cassa, per fare un po' di questo soldi. Questo è il paese dove i comuni si reggono ormai solo più sulle multe e non sulle tasse. Mm. Cioè, la multa è diventata una tassa per gli automobilisti, dove di colpo si fanno abbassare i limiti di velocità per beccare l'automobilista, il quale o frena e viene tamponato oppure passa alla velocità di 130 km all'ora dove di solito si va, mentre la velocità si è abbassata di colpo a 100 e si becca la multa. Beh, questo è un furto organizzato. Se i nostri amministratori pensassero a non derubare il cittadino e amministrare meglio le loro amministrazioni, forse sarebbe meglio ancora, piuttosto che insegnare loro la buona educazione. Non è compito della pubblica amministrazione insegnare la buona educazione. Io intanto... Se uno sporca un monumento viene multato e basta, punto. Se non lo sporca e semplicemente si siede su un gradino, non è la fine del mondo, tutto lì. Cioè, non possiamo pensare che ci sia un comportamento deviante ogni volta che un cittadino si siede su un marciapiede. Sì, tra l'altro io l'altro giorno passeggiavo per il centro di Milano a cercare una panchina, con questo caldo, cioè, cercare una panchina sono pochissime, sono ovviamente affollatissime, poi magari uno si siede dove capita, non so, sui gradini del Sagrato del Duomo, per esempio, chi lo sa. Anche lì c'era gran discussione se multare chi si sedeva sui gradini del Duomo, di Piazza del Duomo a Milano. Vediamo se un ascoltatore prima del traffico, Cesare dalla provincia di Roma, cioè ci state chiamando tanti all'800240024. Cesare, dica. Sì, buongiorno, sono Cesare, chiamo da Anzio. Benissimo, dica. Allora, io ritengo che la ineducazione sia dilagante. La buona educazione regola i rapporti fra cittadini. E dalla ineducazione si passa all'intolleranza, dall'intolleranza all'odio, e dall'odio spesso si passa ai delitti, per cui il tema credo che sia di grande importanza. Ho capito, ma quindi la soluzione sono queste ordinanze? Le ordinanze fanno parte delle regole che lo Stato deve dare ai cittadini. Dei comportamenti dei cittadini la responsabilità è sempre delle istituzioni. Quando il governo ha deciso che i motociclisti si mettessero il casco, lo hanno indossato il casco. Ho capito, ma che ordinanza è vietato baciarsi in auto? Mi scusi, cioè perché che norma è vietato baciarsi in auto? Io sto parlando in genere delle ordinanze, poi le ordinanze possono essere fatte secondo buonsenso oppure no. Cioè, voglio dire, c'è però già le regole. Ma le regole devono essere fatte rispettare. Quanto costa allo Stato? Ma ci sono il concetto è ci sono già ci sono già le ma Cesare ci sono già le leggi che stabiliscono le regole fondamentali da rispettare. Il tema è se bisogna anche fare queste ordinanze oppure no. Ci sono alcuni amministratori che ci stanno spiegando perché di questa importanza. Piero Stellino non la vede questa importanza perché dice anzi ci sono già tante leggi, tante norme, siamo il paese delle norme, delle leggi, nessuno le rispetta e bisogna fare anche queste ordinanze per imporre l'educazione, cosa che non spetterebbe agli amministratori locali. Comunque, io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita, bianco o nero. Detto che su Radio24.it il 66% dei nostri ascoltatori che stanno votando dicono sì, servono questi divieti e ordinanze contro la maleducazione. Voglio andare da un altro ascoltatore e poi andiamo dal sindaco Carrus. Claudio dalla provincia di Piacenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ha detto tutto praticamente il signor Stellino, che è stato chiarissimo. A me quello che preme dire però è che non è possibile che noi dobbiamo sottostare alle paranoie di un sindaco piuttosto che di un altro. perché il primo sindaco che si sveglia e che pensa che questo è maleducato, quell'altra cosa non è maleducata, cioè o è maleducato per tutti o non è maleducato per nessuno un comportamento. Non possiamo, noi usciamo da un comune e lì siamo maleducati, nell'altro comune non siamo più maleducati. Le ordinanze, insomma, a lei non piace questa voglia di le paranoie addirittura definite dei sindaci. Cristiano Carrus, eccoci qua, buongiorno. Sì, buongiorno. Sindaco di Capra, Soristano, lei ha mantenuto, non l'ha fatto lei, ma ha mantenuto un'ordinanza sulla spiaggia di Isaruttas, giusto? Sì, nel quale non si può sulla quale non si può fumare se non si ha il posacenere. Assolutamente. È proprio vietato gettare i mozziconi delle sigarette. Tra l'altro l'ammenda è abbastanza pesante, si va dai 50 euro fino ai 360. Accidenti. E ne fate tante. Diciamo di non fumare. Sì, diciamo. Sì, meglio possiamo dire vietato fumare, diciamo così, sulla spiaggia di Isaruttas. Assolutamente, se non ci sono, diciamo, quei requisiti affinché comunque non si possa salvaguardare la sabbia, anche perché proprio nella stessa spiaggia noi abbiamo un altro divieto, che è quello di asportare i chicchi di quarzo. Lì le multe salgono fino a 500 euro, tra l'altro c'è anche il reato penale. Ma perché lì perché è una spiaggia tutelata? È una spiaggia particolare, noi abbiamo circa 30 chilometri con questa particolarità di sabbia, quindi sono chicchi di quarzo, quindi sabbia bianca, quindi è vietato l'asporto, quindi c'è, oltre all'ammenda c'è anche il penale proprio. Questa ordinanza l'ha fatta lei invece, questa sui chicchi di quarzo? No, questa ordinanza è ugualmente l'abbiamo prorogata noi ugualmente, quindi c'era già, perché era già dal 2002 che è iniziata, quindi noi l'abbiamo ugualmente prorogata e abbiamo sensibilizzato ancora di più attraverso la remanina protetta il divieto di... Senta, ma qua Piero Stellino dice, ma com'è possibile che questi amministratori pensino di imporre l'educazione a colpi d'ordinanza? Cioè, che vuol dire lei non bisogna fumare, o comunque se uno fuma e butta il mozzicone? Cioè, se uno fuma e butta il mozzicone dovrebbe essere una cosa incivile, invece no, lei ha voluto stabilire che deve pagare fino a 300 euro. Purtroppo ritengo che alcune persone, nonostante, diciamo, le regole o comunque la Costituzione impongano determinati comportamenti, non basta, e quindi è necessario alcune volte, anche per tutelare determinate aree, magari con pregi ambientali e culturali, anche attraverso ordinanze, quindi delle ammende. Poi ripeto, per quanto riguarda invece il pagamento di sabbia, addirittura si va sul reato penale, perché sì, se no si rischia, se tutte le persone che arrivano prendono un bicchiere di sabbia o un po' di sabbia, poi si rischia. Ma devono capire così. Vabbè, sentiamo un ascoltatore, Paolo da Siena, buongiorno Paolo. Beh, io mi meraviglio, buongiorno, che sia necessario fare una trasmissione del genere. E perché? I sindaci hanno perfettamente ragione, e anzi mi meraviglio che lei abbia posto questa domanda. Non si può porre una domanda se è giusto camminare nel centro di una città come la mia, oppure nella piazza ducale di Vigevano mezzi nudi. No, di Vigevano no, era Lerici, A Vigevano non possono bivaccare sotto uno dei monumenti più importanti. Com'è possibile che lei, che conduce una trasmissione, possa porre questa domanda? E perché? Io del fatto che lei la ponga, perché non dovrebbe porla, perché è logico. Cioè, è logico cosa? Non si può andare a torso nudo a Lerici, non si può bivaccare sotto un monumento, è logica questa cosa? Ma se per lei, se le pone la domanda, vuol dire che non è logico. Guardi, allora, guardi che la domanda non è tanto si può essere maleducati o no, la domanda è giusto che i sindaci, con ordinanze, quindi con degli atti pubblici firmati, stabiliscano che cosa è maleducazione e che cosa è educazione? Questa è la domanda. Cioè che degli amministratori locali facciano delle ordinanze. Che i sindaci non siano costretti a entrare in questo argomento. Lei prende, parla con lo Spirito Santo, attraverso lo Spirito Santo fa in modo che gli italiani diventino meno ignoranti e meno barbari. E allora questo non è necessario, la situazione è questa. Lei ha toccato il punto, Stellino, eccolo qua, cioè dobbiamo parlare con lo Spirito Santo, se la gente non lo capisce, lo deve capire a colpi di ordinanza. Questo è il punto che dice il nostro Paolo. Infatti il problema malinconico è che la grande maggioranza degli italiani, a cominciare dal signore che appena adesso ha finito di parlare, sognano lo Stato etico. cioè lo Stato che si occupa anche se ci mettiamo le dita nel naso, se ci grattiamo la testa, insomma che si occupa di noi in quella che è la nostra privatezza e che sono i nostri rapporti sociali. Lo Stato si deve occupare di darci delle regole per quello che riguarda le nostre libertà e i nostri diritti, cioè in modo che le mie libertà non menomi le libertà degli altri. Il sindaco che ha parlato prima ha detto una cosa significativa, ha detto deve essere proibito di fumare. No, non si deve proibire di fumare, si deve sanzionare chi butta la cicca per terra. Ma io che fumo, io non fumo, ma comunque chi fuma e si tiene in tasca un pezzo di carta dentro il quale puoi mettere la cicca, non si capisce perché non abbia il diritto di fumare. Ma questo credo è che una persona ben educata. Questo che ce l'ha, credo allora che ce l'ha. A questo punto si evita e si proibisce di fumare nella presunzione che poi quello butti la cicca per terra. Ma andiamo, ma dove diavolo viviamo? Forse il sindaco Carrus dice cioè sconsiglio di fumare, perché sennò uno magari il portacenere non ce l'ha portata e quindi per evitare ammende meglio togliere via il dente, via il dolore, come si suol dire. Io vorrei tornare per un attimo da Andrea Ceffa. Io voglio ricordare tra l'altro i sindaci. Allora, Emanuele Fresco di una lista civica di centrosinistra a Lerici, Andrea Ceffa della Lega Nord. Com'è finita quella multa? Perché so che le ragazze, cioè c'è stata una mobilitazione dei giovani che volevano autotassarsi per pagare questa multa. Quanto era intanto questa multa? La multa era di 160 euro, erano 160. Due le ragazze, poi neanche troppo ragazze, erano già 24-25 anni, cioè non erano due. Vabbè, 160 per due o 160? No, 160 per due. Per due, certo, quindi 320 euro. Però la vicenda, le ragazze sono, la vicenda, se ho l'opportunità di raccontarla come si è svolta, perché vorrei dire a Ostellino che non c'è un intento né persecutorio né con l'intenzione di far cassa. Noi abbiamo un obbligo morale verso la nostra cittadinanza, abbiamo dei monumenti, una piazza, ripeto, bellissima, colgo l'occasione per venire a Vigevano, mi permetta dell'occasione che mi è data, e noi abbiamo un obbligo verso i cittadini di preservarne la loro bellezza e la loro unicità. La vicenda si è svolta semplicemente che il comandante dei vigili, che stava andando a fare un altro intervento in castello, ha invitato le ragazze ad alzarsi, loro si sono rifiutate dicendo no, perché cosa vuoi, a me questo regolamento non mi va bene, io non mi sposto, e gli è stata comminata la multa. Siamo arrivati a un punto in cui anche la divisa o comunque una persona che dovrebbe avere un minimo di autorità, che ti invita ad alzarti facendoti presente che esiste un divieto, c'è l'allergia al non rispetto delle regole. Non hanno fatto un po' di sana contestazione giovanile, magari per un'ordinanza che così mi scusi. Ma la contestazione allora ordinanza può essere fatta in tutti i modi che si vuole, poi è un regolamento, si dice che non si è d'accordo con una regola e si mettono in atto quelle che possono essere tutte le modalità per al limite cambiarla, ma non si contesta, perché altrimenti se io quando ero giovane mi si invitava a scendere la bicicletta perché in senso unico scendevo, non contestavo il fatto che a me va di andare in senso unico in bicicletta, altrimenti di questo passo non si va da nessuna parte, ognuno fa quello che vuole ed è l'anarchia totale. Mi devo fermare qui, ringraziando da Piero Stellino a tutti i nostri amministratori, gli ospiti che sono e gli ascoltatori che sono intervenuti, grazie davvero. Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Che dire, do la linea a Oscar Giannino come di consueto. Scriveteci bianco o nero @radio24.it. A domattina.